Sta qua che non veni mai, quando arriva spa comune si la chiude. L'arvo di dove uno siti, ora moro un affogati, o po' vento che si picchia e si rivolta. Di fantasia, riveniti da trovare. Se domani non agghiona, non trovo scuro felice e contenti. Chiudi, chiudi di non chiudi di chiù. Chiudi, chiudi di non chiudi di chiù. Chiudi, chiudi di non chiudi di chiù. Chiudi, chiudi di non chiudi di chiù. Ah, Santa Lucia, sa rubare a casa tua. Sa vennero ben po' voi televisioni. Di sgamaro la cicchiti, di calammo le mutande. Sabbè già ora ne vennemo pure via. Se solo lo sapevi.